tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 100.000 italiani hanno lasciato il paese nel 2015. Un nostro connazionale su 12 vive all'estero. Mete preferite Germania e Gran Bretagna. Mafia Capitale, la procura chiede l'archiviazione per 116 persone, tra loro il presidente della regione Zingaretti e molti uomini vicini ad Alemanno. Referendum, il TAR convoca il governo e chi ha fatto ricorso contro il quesito, nuovo scontro nel PD. Lotti su D'Alema è accecato dalla rabbia per una poltroncina. Impennata delle richieste di contributi per le famiglie numerose a Milano, ma almeno una su 10 sarebbe falsa. Vive in Italia solamente il capo famiglia e poi manda i soldi nel suo paese. L'ondata di sbarchi, il sistema di accoglienza intanto è alla prova. 1.200 persone attese a Cagliari, 800 ad Augusta, in Sicilia. Il Parlamento polacco ha respinto la legge per vietare l'aborto dopo la grande manifestazione di lunedì. Le qualificazioni mondiali per l'Italia, una delle prove più dure, stasera contro la Spagna a Torino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo dell'emigrazione degli italiani verso l'estero. Oltre all'impennata dei numeri di espatriati italiani, conta soprattutto la fotografia di chi sceglie di trasferirsi all'estero. E tra i 107.529 connazionali espatriati nel 2015, contati dalla Fondazione Migrantes, sono rappresentati soprattutto i giovani, i millennials, tra i 18 e i 34 anni. Il 36,7% di loro ha fatto le valigie negli ultimi 12 mesi, più di 39.000. Con una mobilità in itinere che osserva il rapporto Italiani nel Mondo 2016, può modificare continuamente perché non si basa su un progetto migratorio. Gli espatriati però aumentano in tutte le fasce di età. Rispetto all'anno precedente, a iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero sono stati il 6,2% in più. Quasi il 70% di loro ha scelto un paese europeo, diretto in Germania e Regno Unito. Più di 16.000 si sono trasferiti in queste mete preferite. Poi sono state scelte da oltre 10.000 italiani anche Svizzera e Francia. Resta maggioritaria l'emigrazione meridionale, ma cresce quella dal nord. A lasciare l'Italia soprattutto uomini e persone non sposate. Sono circa il 60% celibi e nubili che vanno a vivere all'estero. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo all'altro fronte, invece quello dell'immigrazione. È nata oggi la nuova agenzia europea per la Guardia Costiera e di Frontiera. È in uno sperduto villaggio tra Turchia e Bulgaria che muove i primi passi oggi la nuova agenzia di Guardia Costiera delle Frontiere e dell'Unione Europea. It is, believe me, an unprecedented achievement. È una prova senza precedenti, credetemi, dell'Unione Europea in tempi in cui la nostra coesione è messa alla prova, dice il commissario europeo Dimitri Avramopoulos durante l'inaugurazione. Il luogo scelto per il lancio non è casuale, è uno dei principali punti d'ingresso via terra dei migranti. Rispetto a Frontex, la nuova agenzia avrà quasi il doppio di agenti permanenti e potrà contare in tempi rapidi su una riserva di 1.500 uomini. Il cui contributo per l'Italia è di 125 persone. Sarà dotata inoltre di apparecchiature tecniche. Tuttavia, se qualcuno pensava che la nuova agenzia avrebbe potuto giocare un ruolo più attivo nel salvataggio dei migranti in mare, si dovrà ricredere. Il mandato è sempre solo di monitoraggio e controllo delle frontiere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo alle notizie che arrivano dall'inchiesta su Mafia Capitale. Arrivano 116 richieste di archiviazione. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Un anno dopo l'inizio del maxi processo per Mafia Capitale, la Procura di Roma chiede l'archiviazione per 116 indagati, persone sotto accusa in tronconi collaterali però, e lascia di fatto a dibattimento quasi esclusivamente i protagonisti dell'indagine che innescò terremoti giudiziari e politici lungo il Tevere. I PM chiedono cioè che cadano le contestazioni per politici come il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del consiglio regionale Leodori, ex consiglieri ed ex collaboratori del passato sindaco Gianni Alemanno, per il quale Piazzale Clodio aveva già chiesto l'archiviazione. Si tratta nella maggior parte dei casi di accuse mosse dopo le dichiarazioni di altri indagati, come è stato per Salvatore Buzzi, il RAS delle cooperative, nei confronti di Zingaretti. Ma vista l'assenza di riscontri e la genericità delle dichiarazioni, scrivono i PM, quelle ipotesi di reato vanno archiviate. Lo stesso vale per alcuni imprenditori o per personaggi noti per altri di casi giudiziari come Gennaro Mockbel o Ernesto Diotallevi. Va ricordato però che sono stati diversi i procedimenti aperti nell'ultimo anno intorno alla maxi inchiesta Mafia Capitale, che ha già avuto anche le prime 4 condanne, e in uno di questi procedimenti collaterali oggi Piazzale Clodio ha chiesto l'archiviazione per 116 indagati, mentre nell'aula bunker di Rebibbia procede il dibattimento ai 46 imputati, dibattimento iniziato il 5 novembre 2015 che vede alla sbarra i protagonisti del cuore dell'indagine, da Buzzi a Carminati, tra modalità mafiose e interessi corruttivi all'ombra del cupolone. Simone. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Dunque, da tutto questo e anche da questo è nato il terremoto politico che ha sconvolto Roma, come sapete. Bene, veniamo proprio alla politica romana e a Virginia Raggi, che oggi ha presentato i suoi nuovi assessori. Sentiamo. Dopo una ricerca tutt'altro che facile, Virginia Raggi presenta all'Assemblea Capitolina i due nuovi membri che completano la sua giunta, l'assessore al bilancio Andrea Mazzillo e quello alle partecipate Massimo Colomban. La prima cittadina ammette di aver incontrato difficoltà, ma assicura che la sua squadra ora è pronta ad andare avanti con determinazione. Sarebbe ipocrita negarlo. È vero che forse in questi primi mesi abbiamo avuto qualche difficoltà, tuttavia queste difficoltà ci hanno aiutato a crescere. In questi 3 mesi abbiamo avuto modo di crescere, di rafforzare il gruppo e di imparare. È chiaro, nessuno di noi, tranne pochi che erano stati all'opposizione, nessuno di noi aveva mai fatto questo prima d'ora, ma stiamo affrontando tutto questo con grande determinazione. È vero, i conti di Roma Capitale non sono in ordine, ha spiegato invece, intervenendo in aula, il neo assessore al bilancio Mazzillo, secondo il quale i problemi riguardano soprattutto i rapporti fra il Campidoglio e le partecipate, una giungla nella quale Colomban metterà ordine, ha assicurato ancora la sindaca Raggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla politica, passiamo a parlare però del referendum, perché c'è il tema del ricorso presentato ieri al TAR e il TAR che inizia a muoversi. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ricordiamo allora le tappe. Ieri il ricorso al TAR del Lazio di 5 Stelle Sinistra Italiana contro il testo del quesito del referendum, definito uno spot ingannevole per il sì. Oggi la convocazione da parte del Tribunale Amministrativo dei Legali, delle due forze politiche e dell'Avvocatura dello Stato per un'audizione preliminare. Non è escluso che già in giornata possa essere pubblicato un decreto. Sin qui le carte bollate, in realtà 5 Stelle Sinistra Italiana ha già risposto ieri il Quirinale, chiamato in causa dai ricorrenti, precisando come la scheda sia stata ammessa dalla Cassazione e non dal Colle. Lo stesso Renzi ha aggiunto che il quesito è il testo della riforma su cui entrambi i fronti hanno già raccolto le firme. Al Premier replica però dal Movimento 5 Stelle Toninelli, che dà del cretino a Renzi e dice: la Cassazione non avrebbe accettato le nostre firme se non le avessimo presentate su quel testo. Dal centrodestra Parisi si proietta al 4 dicembre, gli elettori moderati guardano al sì per paura, ma dobbiamo dimostrare che se vince il no c'è comunque una continuità. Se vince il no nessuno una catastrofe, dice quindi D'Alema, ma il sottosegretario Lotti lo attacca: è accecato da rabbia e odio per una poltroncina mancata. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, questo per quanto riguarda il referendum. L'altro fronte politico sul quale si sta lavorando in queste ore è evidentemente la manovra. Gli aggiornamenti di oggi. Non si placano le polemiche sulle stime di crescita del PIL per il 2017 scritte dal governo nella nota di aggiornamento del DEF. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan la prossima settimana tornerà in Parlamento davanti alla commissione bilancio con nuovi dati per spiegare come si riuscirà a centrare l'obiettivo della crescita all'1%. Una previsione considerata ottimistica da Banca Italia e dall'ufficio bilancio della Camera, ossia l'autorità indipendente sui conti, che non ha validato i numeri dell'esecutivo. E slitta intanto a mercoledì l'esame del DEF nell'aula della Camera. Padoan ribadisce comunque che le previsioni non sono fantasie irrealizzabili, mentre per il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda la discussione da aprire con Bruxelles è sull'esistenza del fiscal compact, perché è evidente che non funziona più e non lo sta rispettando nessuno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo è prevedibile che si parli anche di questo oggi a Torino, dove è atteso, o meglio è già in visita, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tra poco l'incontro all'Unione Industriale di Torino, c'è Filomena Greco là. Filomena, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, così si parla di manifattura, di piano industria 4.0, di economia a Torino, lo si fa in occasione, come dicevi, del passaggio di consegne alla guida dell'Unione Industriale di Torino fra Alice Mazzioli e Dario Gallina, il neopresidente eletto proprio questa mattina. È atteso a minuti l'intervento del Presidente del Consiglio, che è appena arrivato, mentre adesso in questo momento sta parlando il Presidente degli Industriali, Vincenzo Boccia, che ha posto il tema della fiducia, che è il primo tema insomma sul tavolo di questo dibattito, e cui vi daremo conto nel corso probabilmente dei prossimi giornali radio. Dicevamo dunque economia, dicevamo dunque crescita, al centro del dibattito questi temi. Quello di avviare proprio un processo che, stando anche al dibattito degli ultimi giorni sulle stime di crescita del PIL italiano, sembra un processo poi non così deciso e chiaro dal punto di vista dei numeri. A questo tema si è riferito il ministro Carlo Calenda quando ha parlato delle polemiche proprio di questi giorni, sottolineando che il dibattito è un po' surreale perché la distanza tra le stime del Fondo Monetario Internazionale del governo rispetto alla crescita del PIL italiano è solo dello 0,1%, e che quindi il tema è quello sicuramente della crescita, non quello delle stime. La sfida posta sul tavolo è quello del piano Industria 4.0, quello che potrà innescare questo nuovo strumento, facendo partire il ragionamento da un dato significativo: l'82% del valore della produzione industriale nel nostro paese è generato dal 20% delle imprese italiane, quindi c'è una forte dicotomia, diciamo, una forte distanza tra le imprese che corrono, che ce la fanno, che internazionalizzano, e quelle che invece restano indietro. E la sfida è esattamente questa. Di questo tema ha parlato anche a margine il Presidente del Consiglio durante la sua visita questa mattina. È stato in una scuola del Cottolengo, in una zona molto particolare di Torino, una scuola multietnica con moltissimi problemi sociali, e riferendosi a questa scuola ha detto ai ragazzi che quella visita in realtà dimostra che, oltre ai numeri e alla crescita del PIL, esiste una dimensione umana che va alimentata e coltivata. Questo è il quadro al momento da Torino. Grazie a Filomena Greco, che poi ci aggiornerà poi sul resto di questi incontri nel corso della giornata. Noi ci spostiamo a Roma, o meglio ritorniamo a Roma, ma in questo caso per la cronaca, perché è stato arrestato l'uomo accusato dello stupro di un'autista australiana. Si preparava a fuggire all'estero il quarantenne rumeno senza fissa dimora, fermato dalla polizia a bordo di un treno regionale. Sarebbe lui il presunto responsabile dell'aggressione, della violenza sessuale e della rapina subite da una turista australiana la notte di domenica a Colle Oppio a Roma. I due si erano conosciuti in un locale, questo poi quanto accaduto secondo gli inquirenti. Nel voler rientrare in albergo ha chiesto indicazioni sulla strada perché non la ricordava, e lui si è offerto di accompagnarla e poi invece l'ha portata in una zona buia del Colle Oppio, dove è avvenuto quello che è avvenuto, insomma. La polizia ha anche recuperato il denaro e alcuni gioielli della vittima. L'uomo si era nascosto nel Viterbese per poi cercare di fare il ritorno a Roma e di lì fuggire. Il capo della squadra mobile di Roma, Luigi Sillipo. La questura organizza giornalmente da sempre dei servizi proprio per la sicurezza della città. E questa è una risposta importante. In questo caso, ricordiamo sui precedenti, per la pericolosità del soggetto aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ma anche contro la persona, e uno o due tentati omicidi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti torneremo a parlare di tutto questo, soprattutto del degrado che coinvolge alcune zone della capitale. Sentiremo il comitato di quartiere di Colle Oppio che si sta occupando proprio di queste vicende. Avete visto le foto della situazione nella quale si trova il parco di Colle Oppio proprio in queste ore in relazione a questa storia. Vi ricordo che siamo proprio a due passi dal centro. Andiamo all'estero adesso e ci spostiamo in Polonia perché ci sono notizie dopo la manifestazione di lunedì contro la legge sull'aborto. Ebbene, si va verso il ritiro. La Polonia non introdurrà il divieto totale di aborto, ma manterrà in vigore l'attuale legge sull'interruzione di gravidanza, già tra le più restrittive d'Europa. Le manifestazioni di sabato e lunedì scorsi, che hanno portato in strada circa 100.000 persone vestite di nero, hanno indotto il governo del Partito Conservatore Diritto e Giustizia a non usare la sua larga maggioranza in Parlamento per far approvare il disegno di legge. L'Assemblea dunque ha respinto la proposta. Le proteste, ha detto il vice premier Jarosław Gowin, ci hanno fatto pensare e ci hanno dato una lezione di umiltà. Il testo, promosso dai movimenti pro vita, prevedeva la possibilità di abortire solo in caso di grave rischio per la vita della madre ed eliminava le altre due eccezioni: gravidanza frutto di incesto o violenza ed esami prenatali che indicano una grave patologia irreversibile per il feto. Ieri era già stato bocciato in Commissione Giustizia e Diritti Umani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo stati a Torino poco fa, appunto, per la visita del Presidente del Consiglio, ma in realtà i riflettori sono puntati su Torino, anche peraltro stasera la Nazionale, in una partita molto importante, Giovanni Capuano, no? Sì, partita decisiva in realtà, anche se siamo soltanto all'inizio del cammino. Sono passati 101 giorni esatti dal 27 giugno, che ha rappresentato il punto più alto del nostro europeo di Francia. Era il giorno d'Italia-Spagna, a Parigi, la vittoria per 2-0 che ci diede l'illusione di poter arrivare fino in fondo prima che i tedeschi ci rimandassero a casa. Questa sera si riparte da lì, ma se possibile vale anche di più, perché il meccanismo delle qualificazioni mondiali è spietato e Italia-Spagna dello Juventus Stadium significa una specie di dentro fuori che indirizzerà tutto il girone. Lo ricordo, passa solo la prima in classifica, la seconda va ai playoff. Non possiamo perdere, ma la verità è che dobbiamo cercare di vincere per non complicarci poi il cammino nei prossimi 18 mesi, anche perché la qualificazione andremo a giocarci in Spagna, a casa loro. Rispetto alla partita di giugno sono cambiate tante cose. La Spagna ha un nuovo commissario tecnico che si chiama Lopetegui, ha cambiato quasi metà formazione, ha cambiato filosofia di gioco. Anche l'Italia ha un nuovo commissario tecnico che è Ventura al posto di Conte, però siamo ancora ancorati al 3-5-2 di quest'estate e rispetto a quella partita di 3 mesi fa di diversi ci sono soltanto Bonaventura al posto di Giaccherini e Romagnoli che gioca al posto di Chiellini, ma solo perché Chiellini è squalificato. Insomma, la parola d'ordine per l'Italia è continuità per non correre rischi. Si comincia alle 20:45, arbitra un tedesco e anche questo potrebbe essere un segno del destino, visto come andò poi 3 mesi fa per noi nei quarti di finale. Per farci coraggio, proviamo a ricordare che in casa, in partite ufficiali, abbiamo perso solo 3 volte in 122 precedenti e che tra qualificazioni mondiali ed europee la nostra striscia di imbattibilità, casa o trasferta, è arrivata a 51 partite. Non perdiamo dall'ottobre del 2006. Vedremo come andrà dunque questa sera e ovviamente ne parlerete in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e torneremo inevitabilmente a parlare di immigrazione, perché sono stati moltissimi gli sbarchi, ve l'abbiamo raccontato ieri e ieri vi abbiamo raccontato quello che sta succedendo a Palermo. Ad Augusta, che è assai più piccola di Palermo, stanno arrivando 800 migranti, la gestione diventa complicata, Cagliari altri 1200, insomma c'è un problema di gestione di tutto questo in questa fase che riguarda molti comuni. E poi, come vi dicevo, andremo anche a Colle Oppio, ci occuperemo nel corso della puntata anche dell'epidemia di legionellosi a Parma. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei 100.000 italiani che secondo il rapporto Migrantes hanno lasciato il paese nel 2015. Abbiamo parlato della richiesta di archiviazione per 116 persone nel processo Mafia Capitale, in alcuni processi che riguardano la vicenda di Mafia Capitale. Abbiamo parlato di referendum e abbiamo parlato del Parlamento polacco che ha respinto la legge per vietare l'aborto. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Augusta. Dove siamo? Siamo in Sicilia, siamo in provincia di Siracusa, parliamo di una cittadina di 36.000 abitanti nella quale negli ultimi 2 giorni, a causa del fatto che ha un grande porto, sono arrivati 1.700 migranti trasportati dalle navi che hanno effettuato i salvataggi in mare. Possiamo immaginare la confusione, le difficoltà di gestione che stanno provando. Ne chiediamo conto a Maria Francesca Giovanniello, che torna da noi ed è assessore ai servizi sociali del Comune di Augusta, con delega tra l'altro alla Protezione Civile. Buongiorno Giovanniello, benvenuta. Buongiorno. Allora, come andiamo? È una tragedia, mi dispiace dirlo, cioè nel giro di 2 giorni c'è stato lo sbarco numero 53 e oggi 54. E diciamo che dall'inizio dell'anno, ieri eravamo a 19.200 immigrati, oggi con lo sbarco di 1.700 superiamo i 20.000. No, mi scusi, giusto per far capire. No, aspetti, perché forse all'inizio non si è sentito bene. Forse così gli ascoltatori lo capiscono bene se glielo dico io. Nel porto di Augusta, all'inizio dell'anno, ci sono stati 54 sbarchi, ma sbarchi di persone salvate in mare, prese magari dalle navi della Marina o da quelle delle organizzazioni non governative, eccetera, eccetera, che poi hanno scaricato evidentemente i migranti, li hanno fatti scendere nel vostro porto. Quando succede una cosa di questo genere, quando arrivano 1700 persone nel giro di due giorni, come la gestite, Giovanniello? Allora, in pratica ci saranno già quelli che sono arrivati oggi, ancora sono in panchina, so. Dovrò fare il triage clinico con l'ASP, poi stasera penso che arriveranno a essere trasportati al campo, che è sempre all'interno del porto commerciale, perché sì, stiamo parlando di un porto commerciale. E dentro il campo, poi tipo per gli adulti si è occupata solitamente la prefettura. Di ieri ne erano rimasti 400, di cui 100 sono andati stamattina, e altri 300 mi dicevano che la prefettura li avrebbe collocati, sì, penso fuori regione. Mentre invece i minori. Che e già ce l'eravamo raccontato, restano qua in questa specie, chiamiamola di, che cos'è, un campo, una tendopoli allestita all'interno del porto commerciale. Allora, ieri, quelli di ieri, siamo riusciti a smaltirli, è brutto come termine, ma la prefettura ci ha dato queste situazioni ponte e sono stati collocati in strutture emergenziali, che oggi sono al colmo, perché c'erano quelli di ieri e ora si aggiungono, consideri che di solito sono il 10% i minori non accompagnati, quindi oggi stiamo parlando di 1.700. Stanotte, quando finirà l'individuazione, saremo un centinaio. Saranno complessivamente un centinaio. La situazione rimane gestibile per voi? È ormai diventata una questione di abitudine? O ritenete che si possa fare qualcosa per supportare i comuni come il vostro, che ricevono questa pressione che è oggettivamente fortissima, specie quando sono comuni tutto sommato piccoli come Augusta? Sì, il discorso che i minori sono dovrebbe essere modificato la legge, perché è vero che i minori restano responsabilità del comune di sbarco, del comune, ma la legge, la normativa che fa riferimento al codice civile è precedente sicuramente al problema immigrazione. Dovrebbe essere fatta, anche se ora l'articolo 18 è stato aggiunto il terzo comma, dove dice che insieme con la prefettura possono collocare i ragazzi, i minori, al di fuori del comune. Sì. È più o meno le cose stanno funzionando da questo punto di vista, Giovanniello? Diciamo che devono adeguarsi. Devono ancora adeguarsi. Diciamo che la prefettura da qui a poco dovrebbe pubblicare dei bandi fami del Ministero per le strutture, per essere diciamo aggiornata questa nuova normativa, dentro in un circuito ministeriale. Cioè, fino a sì, quando non si hanno queste strutture, noi dobbiamo cercare di ovviare il problema. Di ovviare voi al problema. La ringrazio. Grazie a Maria Francesca Giovanniello, assessore dei servizi sociali del Comune di Augusta, con delega alla protezione civile. Come vedete, stiamo facendo un po' un giro di quello che sta succedendo in queste ore, nelle quali il mare calmo e tranquillo prima dell'arrivo dell'autunno vero e proprio sta portando ad una serie di sbarchi, una serie di problemi in una serie di città, tra cui, lo abbiamo raccontato prima, anche Cagliari per esempio, dove c'è stato uno sbarco con 1200 persone proprio adesso, e anche là le strutture sono in discreta difficoltà. Da Augusta, provincia di Siracusa, nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Roma, dove siamo in linea con Valentina Salerno, che è fondatrice del comitato di quartiere Colle Oppio Stop al Degrado. Buongiorno Salerno, benvenuta. Buongiorno, salve. La storia di cronaca la conoscete, è stato arrestato oggi l'uomo, un cittadino rumeno di 40 anni che ha stuprato e derubato e picchiato una turista australiana nei giorni scorsi, proprio nel parco di Colle Oppio, una donna di 50 anni, è stato arrestato mentre tentava di fuggire. La cosa ha permesso, e ne abbiamo parlato anche nelle ore scorse, di darvi un'idea di cosa sta succedendo in aree anche piuttosto centrali della città. Ci dà un'idea di quello che succede, Salerno? Sì, appunto la premessa doverosa è che non dovrebbero accadere cose di questo tipo in nessuna parte della città. A prescindere, ovviamente, esatto, certo. Chiaramente, ovvio, vivendo noi veramente a 3 minuti dal Colosseo, perché insomma dalle nostre abitazioni tendenzialmente il Colosseo è raggiungibile più o meno in 3, 4, 5 minuti a piedi. Chiunque vive nell'area del Colle Oppio dovrebbe anche beneficiare di un turismo, di un decoro ulteriore, proprio anche come immagine, no, della nostra città e del nostro paese rispetto all'estero. si trova invece a dover vivere delle situazioni che diventano di giorno in giorno più pericolose. Noi abbiamo deciso di fondare questo comitato di quartiere che è proprio in costituzione. Abbiamo fatto la prima riunione, ahimè, due settimane fa, proprio soprattutto a seguito di una, diciamo, più che tentata aggressione, di un'aggressione che poi non si è concretizzata, mia mamma nello specifico, che il 16 agosto, camminando in pieno giorno per venire appunto a casa mia, venne seguita per due volte e poi rincorsa da uno degli abitanti, chiamiamoli così, del Colle Oppio. Perché? Perché là c'è una specie di tendopoli, in sostanza? Più che una specie, è una tendopoli. Sì, è proprio più che una tendopoli, è una cartonopoli, non so come dire, nel senso che prendono questi cartoni, tende, cartoni, tutto quello, materassi, penso l'avrete visto anche nei diversi servizi che, certo, stanno uscendo, sì. e alla bene e meglio cercano di creare una situazione abitativa stabile, perché appunto poi c'è la presenza della Caritas, della mensa lì accanto, che sicuramente crea una situazione ancora più confortevole per certi versi, sì. E fa sì che questo stallo di queste persone comunque aumenti e diventi stabile soprattutto. Io, diciamo, come rappresentante un po' di questo primo comitato di quartiere, che ripeto, vorremmo che diventasse sempre più fruito dai comuni, sì, cittadini. Noi non, sì, siamo persone sponsorizzate politicamente, perché anche la politica o l'istituzione in questo momento ci fa sentire, sì, molto soli, assolutamente, sì. È un continuo scaricabarile tra il municipio, il comune, la sovrintendenza, perché poi Colle Oppio, essendo una zona archeologica, ha diverse entità. Sì, che sono in mezzo, e poi chiaramente lo Stato, perché poi, sai, se non ci metti i poliziotti a controllare è anche ben dura, immagino. Senta, che cosa chiedete in sostanza? Ma noi chiediamo, brevemente, prima cosa, che ci siano delle risposte certe su alcune questioni. Ad esempio, un fatto increscioso è stato che l'apertura e chiusura dei cancelli del Colle Oppio, che è stata diciamo effettuata dal municipio qualche mese, sì, fa, tra febbraio e marzo, è durata circa 4-5 settimane, dopodiché io personalmente ho visto, e questo è un fatto per me importantissimo e fondamentale, le chiavi dei cancelli in mano a degli abusivi del traffico, cioè a delle persone che abusivamente facevano parcheggiare, quindi né vigili, cioè i parcheggiatori abusivi hanno le chiavi del parco di Colle Oppio, ho capito bene? Inverno, perché adesso è sempre aperto, per cui le chiavi non ci sono neanche più. Io posso dire, perché l'ho visti con i miei occhi, poi alcuni mi dissero: perché non hai sporto denuncia? Dico: perché abito lì e chiaramente non vado a, diciamo, mettermi, no, a conto. Perché lei dice anche è anche pericoloso. Senta, va bene, allora, quindi una chiusura, come dire, immagino di notte di questo, del parco di Colle Oppio, e poi immagino un po' più di presenza di forze dell'ordine, no? Assolutamente, che ci sia una presa di responsabilità da parte, sì, di tutti, ripeto. Sì. Allora, io la ringrazio. Grazie Valentina Salerno. Aggiungendo quello che ci scrive un ascoltatore, che la persona che è stata arrestata era un pluricondannato o comunque e nessuno delle forze dell'ordine che lo controllasse, perché poi c'è anche questo tema, e comunque poteva circolare sostanzialmente liberamente, e questo è uno degli altri problemi italiani. Grazie a Valentina Salerno, fondatrice del comitato di quartiere Colle Oppio Stop al Degrado. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, e poi andremo innanzitutto a parlare di una storia che arriva da Milano e che ancora una volta ci parla di immigrazione, e che più che altro ci parla in questo caso di una truffa. Si tratta di una truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni dell'INPS tramite i CAF, i centri di assistenza fiscale. Che cosa succedeva? Succedeva che delle persone sostenevano di avere una famiglia numerosa, ma questa famiglia numerosa effettivamente c'era, e però non viveva in Italia, viveva in Maghreb, in Egitto, in altri luoghi di questo genere, e i soldi venivano inviati là, fino a 960 euro all'anno, a volte anche cifre più alte. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: 100.000 italiani hanno lasciato il paese nel 2015, un nostro connazionale su 12 vive all'estero. Mafia Capitale, la procura ha chiesto l'archiviazione per 116 persone. Sul referendum il TAR ha convocato il governo, e chi ha fatto ricorso contro il quesito. Il Parlamento polacco ha respinto la legge per vietare l'aborto dopo la grande manifestazione di lunedì. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per continuare a parlare di immigrazione e di un'ipotesi di truffa che sta circolando e che riguarda Milano, però poi a un certo punto sarà anche da capire se questa cosa è un po' più ampia. Pierfrancesco Maiorino, assessore al welfare del Comune di Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, succede questo, apprendiamo dalle pagine milanesi del Corriere della Sera, che c'è un contributo che viene dato alle famiglie che hanno l'ISEE sotto i 25.000 euro e che hanno dai 4 figli in su. Succede che quest'anno c'è stata un'impennata in queste richieste che vi ha un po' insospettito, Maiorino. Sì, è un contributo statale, il Comune semplicemente diciamo che raccoglie le domande e sviluppa questo tipo di interazione. Sì, diciamo che vi è stata una qualche incongruenza possibile, però adesso è in corso un'azione diversa, la polizia locale sta svolgendo la propria azione informativa, quindi bisognerà vedere se si tratta di un caso, diciamo di qualche caso o di un fenomeno più consistente. Diciamo che mi sembra di aver capito che al momento, questo riporto del Corriere della Sera, il 10% delle pratiche esaminate è irregolare. No, non è questa la cosa. Il 10% è una campionatura in relazione a cui si stanno facendo le rilevazioni. Al momento c'è un caso, a noi risulta irregolare. Quindi, però magari saranno di più. Diciamo che i furbetti del welfare o gli attori delle dichiarazioni mendaci esistono. Sì. Le pensioni di invalidità false, esistono dichiarazioni sballate, sbagliate o volutamente false, e forse anche in questo caso, che riguarda dunque contributi statali connessi alle famiglie numerose, e siamo di fronte a una cosa di questo genere. Sì. Non condivido per nulla il link che fate sul tema dell'immigrazione. Ma guardi, le ripeto, ho preso le notizie oggi al Corriere della Sera. Stavo arrivando da solo. Deriva in realtà dal titolo del Corriere che connette le due cose in maniera assolutamente, come dire, automatica. In realtà forse siamo di fronte, e ancora non lo sappiamo, a dei casi di furbizia nell'ambito dell'accesso a contributi per le famiglie numerose, forse, cosa ancora non certa. Forse siamo di fronte a il fatto che riguarda cittadini stranieri. La certezza è che ovviamente noi stiamo dando tutti gli elementi, perché il controllo è indispensabile sempre, io credo, nei casi degli stranieri come nei casi degli italiani. Il rigore e il controllo è il primo alleato della politica sociale, non è il suo avversario. E siamo ovviamente in un paese che di furbetti ne conosce tanti. Sì, anche mi auguro che gli immigrati non abbiano preso, diciamo, il costume peggiore italico, visto che il paese. Ma è vero che ci sono casi, però. Mi scusi, solo una conferma: è vero che ci sono casi di soldi poi inviati all'estero, cioè presi per le famiglie numerose e poi inviati a figli che in realtà non sono qua in Italia. Ci sono degli accertamenti in corso, io su questo. Ovviamente. Mi limito a dire che c'è qualche ipotesi di questo genere. Ovviamente le istituzioni devono sempre tenere bene gli occhi aperti, noi lo stiamo facendo e vigilate. Quindi diciamo che non voglio sminuire la cosa stessa in relazione a cui noi stiamo collaborando, voglio semplicemente dire che ancora non siamo di fronte a nulla che faccia pensare a un dato, come dire, sistematico. Magari sì, vedremo. Certo è che quando, ad esempio, quattro anni fa abbiamo realizzato i controlli riguardanti l'ambito della disabilità, troviamo addirittura il 30-35% in relazione a una forma di contributo riguardante disabilità non gravi di dichiarazioni false. Quindi, oppure basta vedere, ieri era pubblica la notizia, l'avrete sicuramente data anche voi, di riguardante l'ISEE, relativo al fatto che il controllo effettuato dallo Stato riguardante l'effettiva capienza dei depositi in banca dava un dato molto diverso da quello ipotizzato, insomma, di gente che fa la furba. Allora, ed era una cosa odiosa in sé e anche in una fase come questa, nella quale ovviamente le risorse sono poche. Allora, Maiorino, io la ringrazio molto per la disponibilità e per le spiegazioni. Per Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali e cultura della salute del del Comune di Milano. Mi devo scusare invece con il prossimo ospite perché i tempi che abbiamo sono stati un po' stretti e quindi non riusciamo a parlare con lui. Si tratta di Roberto Cagarelli, componente dell'unità di crisi regionale sull'epidemia di legionellosi, e parliamo di Parma, dove ci sono state due vittime, e gli chiedo la cortesia di darci la disponibilità per domani. Ci risentiamo domani e parliamo di quello che sta succedendo a Parma nel nostro giro per l'Italia. Siamo andati lunghi, ci perdoni e ci perdonino i cittadini di Parma che magari volevano qualche informazione in più. Domani ve le daremo. Pausa, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.